La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Ben ritrovati, ben ritrovate su Radio Wombat. Buongiorno se ci state ascoltando in diretta o nella replica mattutina, oppure buonasera se ci state ascoltando nella replica, beh, notturna direi esagerato, serale, ecco, serale prima di cena. Vi ricordiamo rassegna stampa, quella che state ascoltando, settimanale a cura di un gruppetto di Radio Wombat che si alterna con altri gruppi per la creazione di rassegne stampe settimanali e rassegna stampa che va in diretta il lunedì a mezzogiorno e che poi invece viene replicata in fascia prima di pranzo e prima di cena nella giornata del mercoledì e del venerdì. Quindi rinnovo l'appuntamento ad ascoltare sempre Radio Wombat e mi raccomando più che altro in diretta, perché ci fate piacere, ci sentiamo meno stupidi che ci sembra di parlare da soli. Allora, rassegna stampa, oggi le cose da dire sono tante, soprattutto apriamo con una notizia, ahimè, piuttosto brutta e allertante, è mattina per tutti, allarmante perché è in corso dalle 3 circa di stanotte lo sgombero della ZAD, della zona d'effondre di Notre-Dame-des-Landes, la zona occupata di cui abbiamo parlato anche, devo dire, nella prima puntata della rassegna stampa di Radio Wombat. In quell'occasione ne avevamo parlato in un'occasione positiva, perché si parlava dell'annuncio dato dal governo francese di Macron di non costruire più, della rinuncia al progetto di costruzione del nuovo aeroporto mostruoso di Notre-Dame-des-Landes e quindi della vittoria epocale dei movimenti e della comunità che ruotava intorno appunto all'opposizione a questo progetto e comunità che si sviluppava intorno alla ZAD, appunto a questa zona occupata nei boschi e nei terreni da difendere da questo progetto mostruoso che era in previsione. Poi però, ahimè, insieme all'annuncio della rinuncia al progetto, Macron aveva detto sì, l'aeroporto non si farà, ma comunque bisogna tornare al ripristino della legalità, Dio non voglia, e quindi i terreni verranno comunque sgomberati e la ZAD verrà riportata al niente sostanzialmente. E nel frattempo vi ricordo che comunque la ZAD è una zona occupata da decenni, perché la lotta contro questa grande opera era in corso da decenni e nel frattempo si era sviluppata una comunità, come spesso accade, come vediamo anche in Val di Susa, una comunità molto viva e bellissima che aveva creato cose importantissime che andavano ben oltre la lotta al progetto e probabilmente, insomma, come se ne evince dai fatti di stamattina e dalle dichiarazioni stesse del governo francese subito, anche già mesi fa, quello che faceva molta paura al governo francese era non tanto il dover rinunciare alla costruzione dell'aeroporto, ma avere in casa una cosa così sovversiva, probabilmente così pericolosa dal loro punto di vista, come la ZAD, come una zona, una comunità autogestita, vasta, funzionante e esempio evidentemente un po' per tutti. Quindi stamattina si sapeva già da qualche giorno i compagni e le compagne della ZAD avevano fatto sapere che si aspettavano uno sgombero imminente, in primis perché la zona intorno a Notre-Dame-des-Landes pullulava di blindati e di camionette, tantissimi, ma proprio si parla di 2500, almeno queste erano le previsioni, poi non so nel frattempo a che numeri siamo, comunque si parlava di 2500 tra gendarmerie e CRS, insomma tra forse viene dell'esercito, in realtà non è proprio dell'esercito, ma insomma sì, esatto. E mi sa che non ti funziona il microfono, ma chissà. È prova. Perché era spento. Infatti. Vabbè, sì. E quindi un grossissimo dispiegamento di mezzi, come dicevamo, anche perché appunto c'erano state avvisaglie, alcuni giornalisti erano stati allertati, insomma si sapeva un po'. In più i compagni e le compagne della SAD avevano ricevuto delle telefonate anonime, pare, così hanno pubblicato sui loro mezzi di informazione, telefonate anonime, probabilmente appunto a quanto dice dalla polizia, che gli dicevano: vi veniamo a prendere, vi faremo il culo lunedì, tenetevi pronti, eccetera eccetera, con simpatiche minacce più o meno violente. Quindi quello che è successo è che loro ovviamente hanno dato l'allarme, la SAD ha dato l'allarme e ha detto: bene, ok, ci prepariamo a difendere la nostra zona. E ricordiamoci che il territorio è un territorio boschivo, dove chiaramente cioè, tutta campagna e boschi, dove loro avevano negli anni, nei decenni, costruito delle abitazioni e dove vivevano di fatto, c'erano abitazioni, luoghi di socialità, di aggregazione, varie attività, e diverse decine, ora non mi ricordo più quante, dicevano comunque diverse decine di edifici. 40 mi sembra. Sì, una quarantina, sì. Mi sembra anche a me. E quindi niente, si preparavano a difenderli, hanno eretto delle barricate durante la notte e stamattina alle 3 è iniziato lo sgombero. E io vi invito fondamentalmente, chiaramente potete immaginare che sono ore abbastanza concitate e capire quello che sta succedendo nel dettaglio è abbastanza difficile, probabilmente già stasera o domani si saprà meglio, avremo un quadro un po' più completo. Le fonti dove seguire direttamente quello che sta succedendo sono le fonti proprio dei compagni della SAD, ovvero il sito innanzitutto zad.nadir.org, dove potete vedere praticamente minuto per minuto quello che sta succedendo. Sono molto efficienti nonostante la concitazione del momento. E poi altro luogo di informazione che vi consigliamo è grenoble.indimedia.org, perché ebbene sì, qualcuno usa ancora Indimedia, abbiamo scoperto, e in particolare Grenoble Indimedia ha creato una radio per l'occasione che si chiama Radio Klaxon, dove si possono ascoltare in diretta le novità sullo sgombero della SAD. E quindi andando proprio su grenoble.indimedia.org accedete anche al player con la diretta per ascoltare Radio Klaxon. E quindi queste due fonti di informazioni secondo noi sono le più indicate, almeno quelle che abbiamo trovato noi, per sapere minuto per minuto quello che sta succedendo. L'idea che ci siamo fatti è che in pratica la resistenza sta avvenendo a distanza, perché i mezzi con cui sono arrivati a distruggere tutto sono molto ingenti, si parla di blindati e tank veri e propri, quindi insomma immaginerete piuttosto complesso pensare di poter resistere a una potenza militare di questo tipo. Nella notte sono state erette, come vi dicevamo, delle barricate a cui è stato dato fuoco, e però appunto con i tank chiaramente le barricate vengono spazzate via piano piano, e ci sono stati già degli arresti. Quello che si capisce anche che la zona è piano piano, come immaginerete, blindata e con griglie, reti e tutto quanto, un'operazione militare in piena regola, e i giornalisti al momento non vengono fatti passare, ovviamente non si vuole che niente esca di lì e non si vuole far sapere cosa sta succedendo nel dettaglio, per cui i giornalisti della stampa ufficiale non possono entrare dentro la SAD, motivo in più per seguire i canali invece nostri, che beh, diciamo che da una parte è meglio a prescindere, ma in questo caso hanno anche accesso davvero alle informazioni. E poi altra notizia, niente, che più o meno procedono sgomberando e distruggendo tutti gli edifici. Quello che viene fatto è distruggere uno per uno le abitazioni, gli edifici. Il governo francese ha già dichiarato su Twitter, perché ormai si parla attraverso Twitter, che bello, che daranno una casa a tutti, non lasceranno nessuno per strada. Immagino che la SAD saranno entusiasti di queste notizie, molto rassicurati, e quindi niente, stanno procedendo con la loro distruzione di tutto quello che c'era. Io purtroppo credo di non poter dare, aggiungere molto altro. Chiaramente tra qualche ora probabilmente saremo in grado di saperne di più, però la nostra rassegna stampa è adesso e quindi vi beccate solo queste informazioni. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. Adesso cambiamo logo argomento, ci spostiamo sulla striscia di Gaza con un articolo di Nena News, nena-news.it. Striscia di Gaza, scambio e formazione, il Freestyle Festival. Sì, io ci tenevo anche, scusami, a segnalare che è un articolo di Mary Calvelli, che è una compagna che in realtà molti di noi conoscono da tanti anni, che è attiva a Gaza, vive a Gaza ed è attiva da tanti anni, e quindi insomma è una fonte particolarmente interessante secondo me, perché è scritta proprio da qualcuno che là ci vive davvero e fa cose da anni. Ok, ve lo vado a leggere. Quest'anno saranno presenti 20 persone suddivise in 4 workshop: skate, writing, graffiti, circo, donne e salute. Sarà inoltre attivo il gruppo media per la documentazione e per dare visibilità ai lavori. Ognuna di queste attività fa parte di un percorso che porterà a realizzare ulteriori festival di freestyle nelle varie aree di Gaza, in sinergia con progetti esistenti del Centro Italiano di Scambi Culturali, VIC. Gaza, 4 aprile 2018, Nena News. Gaza, la striscia di pochi chilometri di territorio perennemente chiuso da due ostinate frontiere, Egitto al sud, Israele al nord, occupanti e guardiani di un popolo diviso e sconfitto. Un territorio di 8x40 chilometri, con 2 milioni di donne e uomini, maggioranza femminile e giovane, l'80% della popolazione profuga, ormai di quarta generazione, la maggior parte di loro non sono mai potuti tornare al proprio villaggio, non hanno mai potuto visitare il resto della Palestina occupata e non sono mai usciti dalla gabbia. Questa è la realtà di Gaza, sorvolata da droni e spesso bombardata da F-16, al posto degli uccelli che una volta migravano in tante specie su questo cielo. Il mare è infestato da navi da guerra che spesso e volentieri sparano sui pescatori. Negli ultimi 10 anni la popolazione ha subito 3 attacchi di guerra, migliaia di case e infrastrutture distrutte, migliaia di civili uccisi dai bombardamenti e dalle cause contingenti. La divisione interna tra le autorità di facto, Fatah in West Bank e Hamas in Gaza, non ha aiutato per niente la popolazione a riprendersi dalle difficoltà dell'occupazione / colonizzazione di questo territorio. Oggi Gaza si trova in una delle situazioni più gravi di crisi economica e impasse politico. Ciò che sono costrette a subire le persone che ci vivono è sicuramente la peggiore tra le forme di violazione sistematica dei diritti umani. In questa cornice ci sembra molto importante cogliere la forte necessità dei giovani gazzavi, che hanno trovato nelle discipline di strada una forma di espressione di ciò che sono e del mondo in cui vivono. Attraverso il parkour, per esempio, sono riusciti a trasformare uno scenario di macerie in un palco in cui mettono in scena la loro arte e la loro voglia di mostrarsi e sentirsi. Il Pick Up a Gaza oggi riesce a comunicare la propria situazione a tutto il mondo. In questi anni i gruppi di scambio e formazione provenienti da tutta Italia hanno realizzato molte attività culturali, sportive e ricreative, tutte rivolte alla popolazione, soprattutto giovanile della striscia di Gaza. L'ultimo progetto è stato realizzato ad agosto 2017. Gaza Freestyle Festival, risistemando un piazzale di cemento pieno di rifiuti, trasformandolo in un'area freestyle con rampe, skateboards e attrezzi da circo. Sono state inoltre consegnate le attrezzature, skateboard, a tre team di giovani che hanno costruito con noi il progetto e che tuttora mantengono attivo il piazzale sul lungomare, in prossimità del porto. Questa esperienza verrà ancora replicata in sinergia con progetti di ACS e Centro Italiano VIC, che ne cura l'organizzazione, in altre aree della striscia. È iniziata inoltre una collaborazione con la Casa delle Donne di Gaza e le sue associazioni sulla questione salute e autodeterminazione, un progetto di scambio che vogliamo continuare attraversando da nord a sud tutte le strutture che ospitano progetti a difesa dell'autodeterminazione delle donne. Workshop, incontri e progetti, marzo-aprile 2018. Nel gruppo di scambio e formazione 2018 saranno presenti 20 persone suddivise in 4 workshop, skate, vrati in graffiti, circo, donne e salute. Sarà inoltre presente il gruppo media per la documentazione. Quello già letto? No. Sembra che si ripeta, scusate. Sarà inoltre presente il gruppo media per la documentazione e la visibilità del progetto. Ognuna di queste attività fa parte del percorso che ci porterà a realizzare ulteriori festival di freestyle nelle varie aree di Gaza, in sinergia con progetti esistenti del Centro Italiano di Scambi Culturali VIC. Il piazzale del Lungomare, dove abbiamo fatto la prima edizione del festival di freestyle, rimane l'area di intervento maggiore per questa carovana, dove concentreremo tutte le attività. Nella parte finale della nostra permanenza si terrà una giornata aperta dove i 5 workshop convergeranno. Il piazzale rimane un'area completa a disposizione del centro VIC, quindi lavoreremo per fare sì che diventi un luogo dove è possibile praticare sport, arte, musica e circo all'interno di un'area accessibile a tutti e tutte. Skate. Anche quest'anno porteremo 40 tavole complete per le crew di ragazzi. L'obiettivo è di rendere il piazzale sul lungomare un'area skate, circo e giochi per bambini. Lavoreremo per costruire 2 strutture in cemento, rampe, una tettoia sulla rampa di legno realizzata nel 2017 ed un magazzino con attrezzi per sistemare le tavole e le rampe. Writing, progetto artistico La Ragnatela. Partendo dalla ricerca del significato simbolico del muro, abbiamo provato ad immaginarsi come poterlo trasformare in qualcosa su cui dipingere per provare a far sì che non sia solamente qualcosa che divide ed isola, ma diventi uno strumento di comunicazione, ribaltandone la sua funzione. Osservando il muro, come se fosse una tela, ci siamo immaginati una ragnatela, che invece di dividere, unisce e mantiene unito, protegge e rafforza. Attraverso il confronto con i ragazzi e ragazze artiste di Gaza, realizzeremo un brainstorming di parole che rappresenta una libertà oltre il muro e daremo loro la forma di ragni capaci di camminare su ogni superficie e quindi di scavalcare il muro. Circo. Formazione per le 3 scuole di circo esistenti a Gaza su acrobazie aeree, tessuti e cerchio, costruzione e uso di trampole, giocoleria e attività circensi per bambini. Attrezzature e giocolerie saranno distribuiti nei rispettivi circhi. Gruppo donne. Attraverso un simbolo disegno di se stesse su un grande disegno condiviso, una narrazione alle altre di se stesse, una proiezione di opere d'arte moderna e contemporanea, da Kandinsky a Miró a Picasso, una lettura dell'opera di se stessa attraverso una storia condivisa, una narrazione creativa, introduzione alle differenze di genere, discussione e spunti per il lavoro pomeridiano. Nel pomeriggio, tutte insieme oppure anche singolarmente, scatto fotografico di ciò che è più rappresentativo delle differenze di genere a Gaza, workshop e attività. Nena News. Allora, sì, questa appunto che parlava era la responsabile del coordinamento e organizzazione a cura del Centro Italiano di Scambi Culturali VIC e penso sia, l'abbiamo scelto questo articolo, era tra le cose che abbiamo pescato da Radio Onda Rossa, una delle fonti che consultiamo per la nostra rassegna stampa, era un articolo consigliato da Radio Onda Rossa e ci sembrava interessante perché sulla situazione palestinese di questi mesi e di questi ultimi periodi si trova un po' di tutto e penso avrete letto tante cose, quindi ci sembrava inutile ripetere un po' quello che già sappiamo e poteva questa essere un'occasione invece di sentire uno spunto un po' diverso e dare un voce anche a quello che si sta provando a fare nonostante tutto a Gaza. Proseguirei e andiamo avanti nella nostra lunga galoppata, ma veloce, nelle notizie di cui vi vogliamo dare conto stamattina e veniamo all'altra nostra, una delle altre nostre fonti di informazioni che è Radio Blackout di Torino. E tra cui iniziamo, abbiamo scelto alcune cose che ci venivano segnalate a Radio Blackout, tra cui iniziamo con l'articolo di Radio Blackout con un'intervista a Simone Pieranni sulla pianificazione della reazione all'aggressione dei dazi, quindi questione dazi tra Trump e Cina, quindi tra Stati Uniti e Cina. C'è un'intervista con Simone Pieranni, ora vi leggo brevemente l'articolo che introduce un po' la questione. Allora, all'inizio della guerra dei dazi, le dichiarazioni di Trump lasciavano intendere che le merci soggette a dazi sarebbero state scelte culatamente per colpire presunti furti di proprietà intellettuale da parte di Pechino, ma in realtà mirava grossolanamente a colpire le filiere individuate da Xi come cuore del programma Made in China 2025, un piano decennale di trasformazione epocale volto a innovare l'intera industria cinese, robotica aerospaziale, di questi giorni il rientro rocambolesco di un satellite geostazionario cinese, tecnologie di comunicazione che gradualmente stanno evolvendo da settori di supporto alla produzione che erano, e forse in quel caso ancora basate sulla copia di prodotti stranieri, in settori di traino globale, esportati e di supporto allo studio dell'intelligenza artificiale e dei big data. Insomma, l'industrializzazione 4.0, come ci racconta Simone Pieranni, in un articolo comparso su eastwest.eu, e poi appunto sentiremo un pezzo dell'intervista che Simone ha rilasciato a Radio Blackout. Trump si è mosso con il solito misto di insolente prosopopea e presunzione arrogante, però è illusorio pensare che la Cina non abbia pianificato da tempo le sue chirurgiche risposte, quindi ci è sembrato più composita l'analisi del conflitto in corso dal lato cinese, a cominciare da un articolo appunto di Simone Pieranni che qualche giorno fa valutava la prima risposta del colosso asiatico alla provocazione statunitense, apparentemente una blanda reazione che colpiva i maiali dell'Iowa, oltretutto un comparto ben conosciuto da Xi in persona. Il mio cinese è orribile, vabbè. Si trattava di un segnale molto simbolico, valutato in soli 3 miliardi di sanzioni daziarie verso gli Stati Uniti, un buffetto rispetto all'intervento di Trump, ma che conteneva un messaggio chiaro su come la risposta sarebbe stata nell'ottica di ritorsione dell'intento iniziale di Trump, colpire il cuore della produzione americana, in particolare quella che ha sostenuto Trump nella sua corsa alla Casa Bianca, appunto gli allevatori di maiali dell'Iowa gettati sul piatto della trattativa. Simone, concludendo il suo articolo del 3 aprile, alludeva alla possibilità di colpire la soia, un prodotto centrale nell'economia cinese, producendo un ammanco alle casse statunitensi di 14 miliardi di dollari. Tutta un'altra storia. Ecco, la trattativa non ha portato alla soluzione e sono arrivati i dazi su 106 prodotti americani, tra cui la soia, volti dunque a indebolire un altro mercato caro ai sostenitori di Trump. In questo caso si evidenziano, in un articolo di Gabriele Battaglia sull'Internazionale, le conseguenze esterne alla lotta commerciale, quelle sull'ambiente, altrettanto disastrose, perché la decisione di fare a meno della soia americana significa che la Cina sa di poter contare in una maggiore produzione da parte di Brasile e Argentina, che accentueranno in seguito a questa richiesta le coltivazioni di OGM, dunque allargando il coinvolgimento globale della guerra dei dazi, perché la Cina consuma il 60% della soia mondiale e quindi determina il suo costo, influendo anche sul comparto della carne. Nonostante questi sconvolgimenti costosi, evidentemente la dirigenza cinese ha valutato che il fine politico di far male a Trump vale la pena di avvitare una spirale di ritorsioni che possono sconvolgere gli equilibri economici e commerciali mondiali, quando il concorrente americano rilancia raddoppiando il valore dei dazi imposti sui prodotti cinesi, arrivando oggi alla cifra di 100 miliardi di aggravi. Questo allora è l'articoletto che dà un po' il quadro della situazione, dando conto di, riassumendo secondo noi in maniera piuttosto interessante le posizioni di vari articolisti in merito a questo argomento, e si intervista poi appunto Simone Pieranni che racconta quello che poi ha scritto nell'articolo che veniva citato su East West. Noi facciamo sentire soltanto un piccolo estratto perché l'intervista è troppo lunga, altrimenti vi invitiamo, se siete curiosi e se volete saperne di più, di andare sul sito di Radio Blackout e radioblackout.org, dove potete trovare l'intervista completa. Ok, buongiorno. Ciao. Intanto, appunto, come ricordavi, Trump si muove sempre, diciamo, con chiari riferimenti fallici, no? Vi ricordate sì, il bottone più grande, adesso io ho i dazi più grandi, perché appunto questa alzata di ingegno sembra un po', come dire, un'azione estemporanea, proprio nel momento in cui invece, come appunto ricordavi, la Cina ha dimostrato di saper colpire con una strategia ben precisa. Io non so adesso se naturalmente si esagera o meno, però la percezione che ho avuto, così come tanti altri, altre persone che diciamo seguono quotidianamente le vicende cinesi, è che la Cina fosse molto preparata e da tempo a questa eventualità, tant'è che quando si è come dire palesata, no? L'annuncio dei dazi per 50 miliardi di dollari da parte di Trump, la Cina è andata abbastanza sul sicuro, cioè ha colpito la pancia praticamente elettorale di Donald Trump proprio nel momento, proprio in prossimità, diciamo, delle elezioni di midterm, e andando praticamente a colpire quindi quell'elettorato di Trump che si era fidato delle promesse di Trump e che adesso si ritrova un po' in difficoltà. Stiamo parlando, cioè, in particolare di quelle zone del Midwest, in particolare alcuni stati come ad esempio l'Iowa, che è uno swing state, quindi è quasi sempre lo stato che preannuncia sostanzialmente, no, come finirà la campagna, le presidenziali, tanto che anche il primo, dove vengono effettuate le primarie con metodi ancora ultra tradizionali, insomma non so quanto poi siano veramente affidabili. Ebbene, la Cina ha colpito sostanzialmente quella zona lì sotto due punti di vista. Prima l'ha fatto colpendo gli allevatori, perché ricordiamo che le sanzioni che la Cina ha deciso sono state effettuate in due tranche. Una prima di risposta immediata prevedeva sanzioni per 3 miliardi, e infatti un po' tutti si riteneva, insomma, che fosse una mossa preparatoria, nel senso che chiaramente rispetto a 50 miliardi era veramente poco, era molto più politica, diciamo, che economica. Uno schiaffetto, un buffet. Sì, esatto, però secondo me era un avvertimento, come dire, attenzione, perché sappiamo dove, diciamo, potervi fare probabilmente più male. E infatti tu il penultimo articolo che avevi, lo chiudevi dicendo, vabbè, se devono proprio far male, colpiscono la soia. E infatti... Esatto, perché questo, guarda, cioè, semplicemente perché leggendo i media cinesi mi sembrava di essere un po' presente una poltrona per due, no? Quando c'è il prezzo. Ho iniziato a controllare tutti i giorni praticamente il prezzo della soia sui mercati, eccetera, perché da una settimana i media cinesi insistevano sulla questione della soia, che gli Stati Uniti sono il primo produttore del mondo, la Cina ne consuma come alimento, ma anche naturalmente come forma di per allevare degli animali, eccetera, ne consuma tipo 6 o 7 volte quello che in realtà ne produce, quindi da sempre acquista principalmente da Stati Uniti, da Argentina e da Brasile. Non è un caso che appena annunciato le sanzioni contro la soia sono aumentate tantissimo in borsa le quotazioni, ad esempio, delle aziende brasiliane che producono. E attenzione, perché poi qua, no, uno dice sempre, vabbè, i dazi riguardano Cina e Stati Uniti, noi che ce frega. In realtà, ad esempio, la questione della soia porterà probabilmente ad un aumento dei prezzi delle carni, perché ovviamente comprando soia da altri paesi aumenterà anche il prezzo, aumenteranno i costi, eccetera. Ecco, in questo caso lì la Cina ha fatto capire, ha fatto invece una mossa ben più forte, perché ha colpito con la stessa moneta, praticamente 50 miliardi, gli Stati Uniti, andando proprio a, come dire, col target ben preciso sulla soia, che costituiva una sorta di polmone economico per quelle zone, ancora una volta, del Midwest, che di recente appunto avevano votato Donald Trump. Rieccoci ai microfoni di Radio Wombat, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Secondo articolo da Radio Blackout, intorno ai blocchi dei portuali genovesi, Radio Blackout 105.250 FM, articolo allegato a un'intervista che non riusciamo a mettervi per questioni di tempo, comunque se la volete sentire la trovate su radioblackout.org, ve la vado a leggere. Mercoledì scorso la tragica morte di un camionista avvenuta nel porto di Genova ha dato il via al blocco dei varchi e a un conseguente sciopero di 24 ore che ha di fatto ingarbugliato la città per tutta la giornata. Il giorno successivo i blocchi sono continuati, questa volta senza copertura sindacale, per appoggiare 25 lavoratori della compagnia Pietro Chiesa, una delle diverse società che organizzano la manodopera all'interno del porto, che avevano un incontro in prefettura per decidere quale sarebbe stato il loro futuro. La richiesta dei portuali era di essere integrati nella compagnia unica, volontà che a parole è stata accolta dai terminalisti grazie alla forza contrattuale che i lavoratori sono stati in grado di mettere in campo. Una forza che i portuali riescono ancora a muovere e che dà non pochi grattacapi a chi vorrebbe ora ristrutturare il lavoro nel porto genovese, rendendolo compatibile alle necessità del mercato globale, sempre più flessibile, che prevedrebbe condizioni di lavoro peggiori per i carbonin. Una situazione, quella dei portuali liguri, piuttosto atipica per i tempi che corrono, dove l'unità tra lavoratori, la capacità di organizzarsi oltre il sindacato e di imporre le proprie condizioni di lotta e l'utilizzo di pratiche efficaci, la rendono un esempio agli occhi di chi non rinuncia a battersi sul posto di lavoro nonostante le difficili condizioni del presente. Ne abbiamo parlato con Cristian, compagno portuale a Genova, che appunto, come vi ho detto, trovate l'intervista completa su radioblackout.org. Sì, intervista lunghetta di circa 20 minuti, ma spiega bene tutta la situazione in corso. Allora, io direi, prima di proseguire nel prossimo articolo che ci parla del Venezuela e delle rivolte in carcere che sono successe negli ultimi periodi, in particolare dell'ultima finita malissimo con un bilancio pesantissimo, ci facciamo introdurre dagli ultimi con un pezzo musicale, in modo che staccate un attimo, basta le nostre voci. Canto del carcerato, tratto da poi un antico e bellissimo canto che era il canto di Malavita, è portato alla luce anche da Gabriella Ferri. Eravamo un po' distratti, ma siamo di nuovo qua, solerti e precisi. Allora, Radio Wombat, 12.45, e siamo in perfetto orario una volta nella vita e vi possiamo procedere tosto con i prossimi articoli. Venezuela, come vi dicevo, Radio Blackout ci parla della rivolta nel carcere di Carabobo e sulla strage di detenuti che è successa in, sempre appunto al momento di questa rivolta. Pubblicato il 1 aprile del 2018 ma aggiornato al 7. Anche qui radioblackout.org per la fonte ufficiale e l'intervista, poi sentiremo anche qui un estratto, ma per l'intervista completa vi rimandiamo sempre al sito di Radio Blackout. Una strage annunciata, quella avvenuta nello stato di Carabobo in Venezuela dentro una caserma adibita a carcere, dove a seguito di una protesta dei detenuti per le condizioni di reclusione è divampato un incendio che ha fatto almeno 68 morti tra prigionieri e parenti. Alla notizia dell'incidente, amici e affetti dei detenuti sono accorsi fuori dal carcere per avere informazioni sui propri cari e sono stati accolti dai manganelli e dai lacrimogeni della polizia. Il Venezuela sta attraversando una crisi di sovraffollamento carcerario impressionante, tanto che lo Stato si è dotato di mini strutture detentive ritagliate tra ex caserme e edifici pubblici per aumentare i posti di prigionia possibili. Questi luoghi, che dovrebbero essere di transito, diventano invece l'ultima meta per i molti che in attesa di giudizio aspettano la prassi tribunalizia per sapere del proprio destino. Qui le condizioni di detenzione sono insostenibili, dato che non essendo carceri veri e propri, mancano completamente di ogni servizio necessario per la sopravvivenza. Uno su tutti, la somministrazione del vitto, che costringe di fatto le famiglie a sobbarcarsi il peso economico della reclusione, recandosi da propri parenti detenuti due volte al giorno per portare loro da mangiare. A ciò si aggiunge il sovraffollamento che rende la vita impossibile. Si prende ad esempio la struttura dove è divampato l'incendio, in cui i posti disponibili sarebbero 40 e dove invece erano detenute oltre 200 persone ammassate le une sulle altre. Una strage annunciata, dunque, la peggiore da diversi anni a questa parte, in termini di perdite umane, che va tristemente a sommarsi ai già numerosissimi episodi di morti collettive che avvengono più o meno con costanza nelle carceri venezuelane. E l'intervista poi che fa Radio Blackout è con Alfredo Luis Somoza, è un giornalista freelance che collabora con diverse testate. Ce ne ascoltiamo anche qui un estratto e l'intervista completa, appunto, potete ascoltarla su radioblackout.org. Anzitutto, purtroppo è una tragedia annunciata ed è un fatto che si sta ripetendo troppo spesso in Venezuela, nel senso che noi a intervalli più o meno ogni qualche mese abbiamo questa situazione. Nel 2013 Uribana erano morti 61 detenuti, l'anno scorso Amazonas erano morti 38, adesso sono 68, oppure ci sono delle versioni da parte dei familiari che parlano di 78 vittime, tra le quali 10 donne, perché c'erano diverse compagne di detenuti che erano in quel momento all'interno del carcere. Diciamo, una situazione che quando accadono queste tragedie ne parliamo, ma è uno stilicidio e continuamente guardare la cronologia delle morti in carcere di Venezuela raccapricciante, perché i due morti è un fenomeno che si ripete praticamente ogni settimana. Cosa sta succedendo in Venezuela? Anzitutto, il Venezuela è uno dei paesi più violenti al mondo, con dei tassi altissimi, soprattutto nelle città come Valencia, che è la terza città del paese, per non parlare di Caracas, che ha i carceri, diciamo, tradizionali totalmente già al di sopra delle loro capacità, e quindi hanno dovuto arrangiarsi in Venezuela stabilendo o creando queste, loro lo chiamano mini carceri, che sono in realtà delle piccole strutture all'interno di caserme, di commissariati, cioè quei carceri dove si suppone che nessuno stia più di 24-48 ore quando viene fermato, quindi sono, diciamo, di carceri di transito, che invece sono diventati carceri permanenti pur non avendo le strutture. Ad esempio, qui a Carabobo i detenuti non potevano nemmeno cucinare e dovevano essere alimentati dall'esterno, dalle famiglie che dovevano andare due volte al giorno, e sono carceri, appunto, che non sono previsti per detenzione di lungo termine e che sono anche queste sopra le loro possibilità. Cioè, a Carabobo quel carcere lì poteva ospitare 40 detenuti, ne ospitava 200, E in questa situazione, appunto, in Venezuela si calcola siano 500 queste situazioni che coinvolgono una popolazione carceraria di circa 45.000 persone. Va detto anche che i detenuti che si trovano in questi mini carceri per la maggior parte sono in attesa di un processo, quindi sono in una detenzione preventiva, e questo anche dovuto ai tempi infiniti della giustizia venezuelana. È un fermo che si estende per molto tempo e sostanzialmente comincia a essere scontato un carcere prima ancora di essere giudicato in queste strutture che non sarebbero idonee. Quindi è una situazione totalmente esplosiva, dalla quale non si può purtroppo che aspettare quello che è successo. C'è anche da aggiungere la violenza delle guardie carcerarie venezuelane, piuttosto nota, ma ieri sono trapelate delle testimonianze di sopravvissuti che dicono che quando è iniziata questa rivolta, che guardate che va chiarito, non sono le rivolte dei carceri brasiliani dove i cartelli del narcotraffico dirimono chi comanda in quel carcere, sono proprio sommosse legate alle condizioni di vita, quindi senza dietro manovratori strani. Dicevo, i poliziotti, pare che quando è scoppiata questa rivolta, hanno sparato direttamente sui detenuti, e addirittura qualcuno dice di averli visto gettare benzina per poi dare fuoco a tutto, anche per fare scomparire probabilmente le prove di quello che avevano fatto. Quindi una situazione dantesca veramente. Le famiglie erano a manifestare fuori dal carcere per avere notizie, sono stati repressi i parenti, sono stati lanciati i gas lacrimogeni. C'è una situazione che veramente è fuori controllo. Ecco qua, di nuovo in regia, e dopo il Venezuela e dopo la rassegna stampa che riguardava Radio Blackout, passiamo invece a un'altra fonte di informazione, che è Radio Onda d'Urto, questa volta di Brescia. Primo articolo da Radio Onda d'Urto, www.radioondadurto.org, articolo di accompagnamento all'intervista che vi faremo sentire. Crash rioccupa l'undicesima casa in via Fiammelli, appunto sulla nuova occupazione del centro sociale laboratorio Crash, sgomberato questo agosto. Ve lo vado a leggere. Il laboratorio Crash di Bologna è tornato, stavolta per restarci. L'undicesima sede del laboratorio Felsineo, casa dell'antagonismo cittadino, è in via Don Fiammelli, nel quartiere di Corticella. Dopo una serie di occupazioni flash realizzate negli ultimi mesi per segnalare le decine di spazi vuoti in città e a seguito dello sgombero poliziesco dell'agosto 2017, oggi pomeriggio, giovedì 5 aprile, attiviste e attivisti hanno riaperto uno stabile vuoto da decenni di proprietà di Banca Etruria, prima e ora da UbiBanca. Ora vi leggo, questo era l'articolo accompagnamento, c'è il comunicato del laboratorio Crash. Nuova occupazione, salva spazi. Raggiungeteli tutti e tutte in via Don Fiammelli, angolo di via Corticella, bus numero 27, fermata Lipparini. Siamo appena entrati dentro l'ennesimo spazio abbandonato nella periferia della nostra città. Da decenni è stato abbandonato al non uso e all'incuria. Poi è stato comprato da Banca Etruria, che lo ha lasciato al degrado per molti anni. Dopo il fallimento della banca, che ha gettato sul lastrico numerosi risparmiatori, la struttura è stata acquisita da UbiBanca nel processo di fusione, ma con dei vincoli che però non permettono di rivendere l'immobile, che resterà vuoto, abbandonato ancora per anni. Chiediamo l'apertura di un tavolo con la prefettura, comune di Bologna e proprietà, con la richiesta di destinare l'immobile ad usi sociali e solidali, culturali, sportivi, artistici e ricreativi. Vogliamo aprire un dibattito in città sullo stato in cui versano gigantesche strutture edilizie inutilizzate e in attesa da decenni dell'occasione buona per fare un bel bottino di speculazione, mentre la cittadinanza e soprattutto la periferia pone con forza la domanda di utilizzo del già costruito, invenduto e abbandonato. A Bologna ora è tempo di un salva spazi e il rifiuto vergognoso, ad esempio, di Poste Italiane di aprire una trattativa per una rigenerazione sociale dei suoi edifici in via Zanardi non ci ha certo fatto desistere dalla volontà di andare avanti nella nostra odissea fino a quando le nostre istanze sociali e culturali non avranno casa. Intanto, da questo momento, ci impegniamo a rigenerare questo edificio nel segno della solidarietà, della cultura e dell'aggregazione giovanile, non solo, attivando numerosi progetti. Invitiamo alla conferenza stampa dell'undicesimo laboratorio Crash in via Don Fiammare alle ore 18. Ora vi si fa sentire l'intervista. Un'ultima domanda, Michele. Come dicevi tu, il laboratorio Crash di Bologna è stato sgomberato varie volte. Gli ultimi sgomberi sono quello dello scorso agosto, dalla storica sede di Via della Cooperazione, poi nuovamente sgomberati a novembre da Via Zanolini. Noi ci eravamo già sentite all'inizio di marzo e c'era un percorso di sollecitazione e verifica concordato con la giunta comunale per la disponibilità di immobili abbandonati. Però all'inizio di marzo questo percorso era in fase di stallo a causa proprio dell'amministrazione. Con questa nuova occupazione possiamo dire che il percorso si è concluso ed è andato male? Noi, come abbiamo detto anche nel comunicato che abbiamo rilasciato dopo l'ultima iniziativa dello scorso marzo, noi abbiamo avuto di fronte un rifiuto, un diniego netto da parte dei possessori di immobili sfitti in città, come appunto le poste, come in altre occasioni banche di vario tipo, eccetera, a di fatto mettere a disposizione all'interno anche di piani di autorecupero e di autogestione di questi immobili sfitti. Quindi il discorso è che sì, sicuramente non c'è stata la volontà politica da parte ovviamente dei privati, che pensano unicamente a dimensioni di speculazioni e di profitto, di concludere un accordo. Quello che però noi con questo vogliamo dire è che comunque ci sono anche delle volontà, delle possibilità anche di forzare questi processi, che crediamo siano anche compito delle istituzioni, dell'amministrazione comunale, di tutte quelle che sono appunto le istituzioni di governo, gli enti locali di questa città. Quindi è necessario che appunto queste facciano la scelta giusta e di fatto diano uno spazio, assegnino uno spazio al laboratorio Crash, che ha tutta la legittimità e l'radicamento all'interno di questa città per reclamarne uno. Allora, quindi salutiamo la nuova occupazione, la liberazione di un nuovo spazio a Bologna, il laboratorio Crash, e proseguiamo nella nostra rassegna. Rimaniamo su Radio Onda d'Urto, vi ricordo il sito radioondadurto.org. Questa volta andiamo in India per una rivolta in occasione dello sciopero nazionale dei Dalit, con 9 morti e centinaia di feriti. Notizia che Radio Onda d'Urto scrive il 3 aprile. Un Bharat Band, uno sciopero nazionale organizzato dagli intoccabili senza casta, si è trasformato in India nella giornata del 2 aprile in una guerriglia urbana, con un bilancio di 9 morti, decine di feriti, strade e ferrovie bloccate e gravissimi danni. Nel mirino della protesta una sentenza della Corte Suprema, che ha ridotto la protezione dei Dalit dai maltrattamenti subiti spesso dai senza casta ad opera di esponenti delle caste alte. Contro a New Delhi in 11 stati dell'Unione. Il sistema delle caste, abolito nel 1950, permane ancora oggi, principalmente nelle zone rurali, ma sostanzialmente anche nelle grandi città e agglomerati urbani in cui vivono migliaia di Dalit. Ai nostri microfoni, quelli di Radio Onda d'Urto e poi di conseguenza anche ai nostri, Marina Forti, giornalista freelance, collaboratrice di Internazionale, esperta di India, che ha contestualizzato sul piano politico e sociale la mobilitazione di massa dei Dalit. Questa è l'intervista, anche questa volta tagliata, e l'integrale, vi ricordo, è su radioondadurto.org. Sembra strano sentir parlare ancora di caste oggi, perché in effetti è vero che ci sono state, la casta fa parte della tradizione, è la base della suddivisione della società indo in termini molto tradizionali, però sembra qualche cosa di superato, anche perché c'è una lunghissima storia di movimenti per l'emancipazione, per i diritti, per la dignità delle caste svantaggiate, come vengono definite dalla Costituzione. C'è stato appunto nella Costituzione indiana, c'è un sistema molto ramificato di azioni positive, quindi di azioni che dovrebbero garantire l'ingresso dei Dalit nell'istruzione, nel lavoro, nella pubblica amministrazione, e che dovrebbe aver eliminato, diciamo, le basi della discriminazione. C'è stato anche, tra l'altro, una lunga storia di movimenti e di proteste dall'inizio del XX secolo, poi in particolare negli anni 60 e 70 del secolo scorso. Il punto è che 70 anni dopo che la Costituzione indiana ha vietato l'intoccabilità e ha vietato tutte le discriminazioni che sono legate alla casta, il punto è che non può aver abolito la casta in sé, perché questo fa parte della società. E diciamo, molte cose sono effettivamente cambiate da quando la Costituzione indiana, di cui tra l'altro uno dei padri è stato Ambedkar, che era un giurista, è stato appunto uno dei padri costituenti ed era un Dalit lui stesso. Ecco, da quando la Costituzione è stata scritta, da quando c'è questo sistema di azioni positive, che è vero che molti dei Dalit sono entrati effettivamente nell'amministrazione pubblica, nella scuola, sono arrivati anche in molti casi ai livelli più alti della scala delle professioni, dottori, giudici, avvocati, eccetera. E nel frattempo l'India è cambiata molto, perché il paese si è modernizzato, diciamo, l'economia è cresciuta e l'urbanizzazione è cresciuta. In genere il passaggio all'urbanizzazione è un passaggio di emancipazione, diciamo, rispetto alla società più tradizionale del villaggio. Eppure la divisione del lavoro basato sulla casta persiste soprattutto ai livelli più bassi, ai livelli cioè dei lavori più servili, e questo. E quello che abbiamo visto negli ultimissimi anni è che, anche grazie al fatto che il governo oggi è retto da un partito che si richiama molto alla tradizione indù, anzi un partito nazionalista indù, che ha dato molto spazio alle manifestazioni più estreme, diciamo, della tradizione indù, quello che abbiamo visto è che si sono ripetuti e moltiplicati i casi di aggressione a singole persone e soprattutto a comunità intere, percepite come inferiori perché Dalit o perché tribali, eccetera. Una delle cose diciamo che è più sconsolante è che 70 anni dopo le azioni positive, il fatto che molti Dalit sono tutto sommato entrati all'università, entrati nelle professioni, entrati, diciamo, nel mainstream della società, eppure se poi si va a guardare uno studio molto interessante fatto un paio di anni fa da un centro di studi di New Delhi, era andato a guardare quanto i Dalit sono rappresentati, ad esempio, nella burocrazia, nelle professioni, nei mass media. Nei mass media è impressionante, su 315, loro avevano fatto un'analisi, su 315 decision makers, diciamo le firme più importanti, eccetera, di tutte le pubblicazioni, sia in inglese che non ce n'era neanche uno, diciamo, che fosse un Dalit. Lo stesso vale per la TV, lo stesso vale per la radio, cioè tutto ciò che ha a che vedere con la formazione dell'opinione pubblica, la formazione del mainstream e resta saldamente dominato dalle caste alte o dai bramini. Yeah. Can you pull back in time? There's a voice in your head and there's a voice from behind, appealing to reason to help you make sense of the mess that's around you. Are you a spanner in the works or part of the plan? Are you shaking or biting the invisible hand? Is revenge the only way that you can make a stand? It's not how you fall, it's how you land. It's how you land. Radio Wombat, rassegna stampa, vi ricordo i social Wombat, wombat.novlogs.org, dal quale probabilmente ci state ascoltando in streaming, la casella di posta, posta wombat@insiberia.net, e altrimenti potete anche ascoltarci sulla nostra frequenza in onde medie 1359 AM se siete raggiunti dal nostro Wombat segnale. Abbiamo ancora solo due articoli da proporvi. InfoOut, la nostra prossima fonte. Sì, infatti, il primo articolo di InfoOut riguarda il nuovo fuoco amico di Casa Pound, appunto, a Torino, il pugno in faccia che si sono autoinflitti a quella specie di presidio che stavano tentando di fare. Mi piace il fuoco amico. Eh sì, appunto. Bello. Fatto simile era successo a Roma pochi mesi fa, Cinghia Mattanza è finita un po' male. Male o bene a seconda dei punti di vista. Sì, insomma. Sì, per noi bene, per loro un po' meno. Grasse risate per mesi, insomma. Eh sì, anche qua abbastanza comico. Video del pugno in faccia al leader di Casa Pound. C'è solo da ridere, da www.infoout.org. Ve lo vado a leggere. Consiglio comunque di guardarsi il video perché la scaramuccia fa sempre ridere. In queste ore imperversa sul web il video di due fascisti che si picchiano tra di loro. C'è il tronfio segretario provinciale di un partitino dello 0, niente che convoca una manifestazione ma si trova con quattro amici, vedere le immagini per credere, a scattarsi selfie davanti a un palazzo dove abitano tanti giovani e famiglie che, come tutti, vivono, lavorano e si arrangiano nella nostra città. L'operazione, si badi bene, è resa possibile soltanto dal servizio d'ordine predisposto dalla Questura di Torino, che schiera decine di poliziotti a difesa dei fascisti del terzo millennio, perché i ragazzi del MOI, le palazzine olimpiche abbandonate dopo Torino nel 2006, questi quattro sfigati se li potrebbero mangiare crudi in mezzo secondo, come meriterebbe chiunque viene davanti a casa tua a pavoneggiarsi e speculare sulla tua vita per il proprio tornaconto elettorale. Tutto giusto. A un certo punto, vedendo tutti quei giornalisti, un simpatizzante di Casa Pound, così ci dicono i quotidiani, disoccupato e in difficoltà economiche, pensa sia una buona occasione per parlare dei suoi problemi. Non ha fatto i conti col segretario provinciale di partito, Matteo Rossino, che lo redarguisce e gli intima di non parlare con i giornalisti della sua situazione. Questo non ci sta e gli molla un bel cazzotto. Quell'uomo non è nemmeno tesserato, è una persona con problemi e avevo già detto in precedenza di non cercare i giornalisti per parlare della sua situazione di disoccupato, dirà ai cronisti. Si scatena un parapiglia e il Ducetto viene salvato dalla persona con problemi dall'intervento della Digos, un siparietto abbastanza patetico che sta facendo sganasciare mezza Italia e che anche a noi di primo acchito ha strappato una sonora risata. Non è la prima e non sarà l'ultima con questi fenomeni di Casa Pound Torino. Ci ha però colpito un'altra cosa. C'è un signore disoccupato italiano, fascista addirittura, che vorrebbe che in un'iniziativa si parlasse della sua situazione. Per Casa Pound però questo non va bene. Perché? Perché per loro la politica è un teatro, in cui al centro non ci sono i problemi delle persone e la loro voglia di riscatto. Italiani o immigrati, poco importa. Le persone e i loro problemi, per questa gente, come per tutti i politici d'altro canto, sono cose da usare. Quando va bene sono oggetti di scena, come i residenti di Mirafiori. Quando va male sono coreografie di sfondo, come gli abitanti del MOI. Per loro è importante però che la politica resti una recita, con i suoi tempi scenici e la sua divisione in atti. Soprattutto al centro ci deve essere sempre Casa Pound stessa, e la sua pantomima. Qui c'è pantomima, vabbè. La pantomima, è vero. Ma ti capitano sempre a te gli errori? Sì, infatti, poi sembro scemo. È un complotto. Oltre all'ilarità, questo è successo ieri. Davanti a una crocchio di giornalisti e politicanti si presenta un disoccupato che vuole prendere parola sulle proprie condizioni di vita, ma che viene zittito. Oggi si specula solo sui neri. In questa scena non è forse racchiusa tutta la miseria umana, ancora prima che politica, di questi tristi personaggi? Dal Facebook Centro Sociale a Scatasuna, comunque lo potete trovare, come ho detto prima, su www.infot.org. Aggiungerei che poi magari queste persone con problemi, allontanate addirittura pure da Casa Pound perché non abbastanza folcloristiche, poi magari vanno in giro a sparare agli africani per farsi vedere. E va bene, Info Out, altro articolo, ultimo di questa rassegna stampa, invece si parla della scuola lavoro, questa meravigliosa trovata di questi anni che Matteo ci ha regalato. Sei in condotta a chi critica l'alternanza scuola-lavoro. Vedi, questo non era neanche un errore, sono proprio io che non so leggere. L'alternanza scuola-lavoro, cioè proprio riesco a dirlo perché è una roba talmente terribile. Cioè non basta la scuola, anche il lavoro, tutti insieme, oddio. Continua a suscitare polemiche. Questa volta è stato dato il 6 in condotta ad uno studente che ha espresso un giudizio negativo su Facebook in merito alla mansione svolta. E ci sarebbe anche da dirne su Facebook, ma vabbè. Dopo il caso del Vittorio Emanuele II di Napoli, in cui il FAI, il Fondo Ambientale Italiano, ha chiesto misure disciplinari e il 7 in condotta per gli studenti che hanno protestato per essere stati obbligati a prestare servizio di domenica e dopo una settimana di vacanza studio, arriva addirittura il 6 in condotta per chi si lamenta pubblicamente dell'alternanza scuola-lavoro. Questa volta però a farlo è proprio il consiglio di classe, con l'obiettivo di dare un segnale non esemplare ma giusto. Sarebbe stato uno sfogo quello dello studente dell'ITIS di Carpi, che avrebbe espresso attraverso un post su Facebook delle criticità riguardo al progetto di alternanza che prevedeva l'esecuzione di una mansione ripetitiva per il quale, secondo lo studente, bisogna essere pagati. Ma strano, vero? C'è un'obiezione incredibile, Sì, davvero. Bizzarra. C'è gente strana in giro. Davvero? Pagati per il lavoro. Ma incredibile. Mai sentito. Questi giovani d'oggi sono incredibili. Vergogna. Vergogna. Continuano quindi i tentativi di addomesticare attraverso punizione gli studenti che difficilmente si adattano alle regole imposte dall'ultima riforma della scuola attuata dal governo Renzi. Sappiamo quale sia la funzione sociale di tutta la riforma e dell'alternanza scuola-lavoro in particolare. Non poche sono state le polemiche fino ad ora riguardo, e questa è solo l'ultima notizia che ci dice quanto l'alternanza sia uno strumento di coercizione e disciplinamento a condizioni di lavoro precario e non pagato. E le dinamiche non sono poi così lontane dai classici rapporti di lavoro. Se non ti piace la mansione che svolgi, vuoi lavorare meno ore in un giorno o avere una retribuzione più alta e protesti per avere riconosciuti i tuoi diritti, allora quello che ti aspetta sono delle note disciplinari, se non addirittura il licenziamento. E per fare in modo che si arrivi nel mondo del lavoro già pronti a queste logiche, allora si provano a riprodurre a scuola attraverso appunto quello strumento che dovrebbe avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Ma infatti secondo me, cioè, è giusto, nel senso, se no uno arriva illudendosi e il mondo del lavoro sia bello. Sì, infatti. No, fa schifo. Voglio vivere da fantozzi sin dai 14 anni. Sì, assolutamente. Voglio dire, ma ci mancherebbe, non lavorare mai. La stabilità lavorativa è direttamente proporzionale a quanto si è flessibili e disposti ad accettare qualsiasi condizione lavorativa. E adesso, più che mai, l'andamento scolastico diventa l'oggetto del ricatto per indurre sempre più alla condiscendenza e alla produttività. Per fortuna, però, e gli ultimi episodi ci confermano anche questo, per addomesticare gli studenti di questo paese, la controparte ha ancora tanto da studiare. Speriamo. E con questo io direi che abbiamo concluso la nostra rassegna stampa di questa seconda settimana di aprile. Vi salutiamo con un pezzo che non c'entra molto, ma secondo noi è bello e può essere un augurio agli studenti che devono anticipatamente confrontarsi col lavoro, ovvero i Bellicosi con Gli anni migliori, che boh, secondo me è un pezzo bellissimo, non me ne frega niente, se non c'entra lo metto lo stesso. Va bene, e quindi ci ascoltiamo questo pezzo e ci ritroviamo con la rassegna stampa lunedì prossimo, sempre in diretta, non con noi, ma con altri vombati e vombatesse. Ciao ciao! Ciao!